Capitolo 13. Dopo la visita a Manchester fece ritorno a casa, dove ritrovò la penosa situazione che vi si era creata durante lo scorso inverno. Il giorno della partenza di Mr. Nichols da Haworth si avvicinava. Durante una riunione pubblica i parrocchiani vollero testimoniare il loro rispetto a chi li aveva fedelmente serviti durante 8 anni. Poi egli partì. Charlotte non prevedeva possibilità alcuna di ricevere sue notizie in avvenire, all'infuori di qualche occasionale informazione di seconda mano lasciata cadere per caso da un ecclesiastico del vicinato. Avevo promesso di farle una visita al mio ritorno da Londra nel mese di giugno, ma quando già ne avevamo fissata la data mi giunse una lettera di Mr. Bront con la notizia che la figliola soffriva di un grave attacco di influenza accompagnato da lancinanti dolori al capo, di modo che veniva a chiedermi di differire la mia visita finché non fosse migliorata. Benché spiacente per la causa del rinvio, non mi rincrebbe che la visita fosse rimandata alla stagione in cui la fioritura dell'erica porporina avrebbe rivestito la landa di uno splendido manto, uno spettacolo del quale spesso Charlotte mi aveva parlato. Concordammo perciò che non sarei andata prima di agosto o di settembre. Nel frattempo ricevetti una lettera da cui voglio citare quanto segue, perché mostra sia le sue idee sullo scrivere narrativa che il suo costante e gentile interesse per me. 9 luglio 1853. Grazie per la sua lettera. È stata piacevole come una tranquilla chiacchierata, benvenuta come un acquazzone primaverile, tonificante come la visita di un'amica. A farla breve è stata proprio come una pagina di Cranford. Mi colpisce un pensiero. Lei, che ha tanti amici, una così vasta cerchia di conoscenze, quando siede alla scrivania trova facile isolarsi da tutti, dimenticare la loro dolce compagnia tanto da essere una donna tutta per sé, libera dal pensiero che la sua opera possa influenzare altre menti, dimentica del biasimo o della simpatia che potrà suscitare. Una nube luminosa non si frappone mai tra lei e la severa verità, quale la vede nella sua segreta e chiaroveggente anima. In una parola, non è mai tentata di vedere i suoi personaggi più amabili di quanto possano esserlo nella realtà, assimilando i suoi pensieri ai pensieri di coloro che sempre sentono gentilmente, ma a volte mancano di vedere in modo giusto. Non risponda alla mia domanda, non è posta per ottenere risposta. Il suo resoconto di Mrs. Stowe è stato stimolante e interessante. Sono impaziente di vederla per sentirgliene parlare di nuovo, come pure di molte altre cose. Mio padre continua a star meglio e sto meglio anch'io, ma oggi sono nuovamente preda di un mal di capo che quasi non mi permette di scrivere in modo coerente. Saluti affettuosamente per me, M e M, care felici bambine che sono. Ora lei non può trasmettere il mio messaggio a F e a J. Ho apprezzato il fiorellino selvatico. Non che io pensi che a chi lo manda importi qualcosa di me, non gliene importa e non può importargliene, visto che non mi conosce, ma va bene lo stesso. La ricordo come una persona di una certa distinzione. Penso che abbia una bella indole, franca, piena di genuine promesse. Spesso la rivedo col pensiero quale mi apparve quando avanzava con suprema dignità dal portico verso la carrozza, quella sera che andammo a vedere la 12ª notte. Credo nel futuro di Jay. Mi piace quanto dicono le sue movenze e quello che ha scritto sul suo viso. Sono stata lieta di ricevere le sue righe, lieta di sentire che è di ritorno a casa. Non che all'atto pratico faccia per me una grande differenza che lei sia in Normandia o a Manchester, la distanza più corta ci separa tanto effettivamente quanto quella più lunga. Tuttavia il pensiero che si frappongono tra noi solamente 30 miglia, costituisce un conforto. Venga a Haworth appena le sarà possibile. L'erica ora è in fiore. Ho aspettato e spiato il suo segnale porporino quale precursore della sua venuta. Non sarà completamente appassita prima del 16, ma dopo questa data presto seccherà. Non trascuri di dirmi il giorno e l'ora del suo arrivo a Keighley. Mio padre non ha passato una buona estate, tuttavia migliore di quanto mi aspettassi. Lamenta principalmente di sentirsi debole e depresso, e tuttavia la prospettiva di una sua venuta gli dà piacere. Sono sorpresa nel vedere con quanta impazienza l'aspetta. La salute mia è stata assai migliore ultimamente. Suppongo che Meta sia sul punto di rientrare a scuola. Questo giro estivo sarà ricordato per tutta la vita da lei e da Marian. Grande sarà la gioia delle bambine nel rivederla a casa. Mi ricordi molto, molto cordialmente a Mr. Gaskell e a tutta la cerchia. Scriva quando ne hai il tempo, venga quanto prima possibile e mi creda sinceramente sua, Charlotte Bronte. Verso la fine di settembre mi recai a Haworth. A rischio di ripetermi, copierò una lettera che scrissi in quel tempo. È stato un giorno opaco, piovigginoso, color dell'inchiostro di china durante tutto il percorso in ferrovia fino a Keighley, che è una città di espansione grazie alle manifatture di panno di lana. Sorge in un avvallamento tra le colline. Non un bel avvallamento, ma piuttosto ciò che la gente dello Yorkshire definisce un fondovalle. Lasciai Keighley in carrozza per Haworth, che ha 4 miglia di distanza, 4 dure, ripide miglia di arrampicata. La strada serpeggia in mezzo alle immobili onde delle colline che sorgono e scendono da ogni parte dell'orizzonte con un tracciato lungo, sinuoso, senza fine, come se fossero parte del grande serpente che, a quanto dicono le leggende nordiche, circonda il mondo. La giornata era plumbea. Lungo la strada sorgono fabbricati industriali costruiti in pietra e grigie, monotone file di piccole case che appartengono alle fabbriche. Poi giungemmo ai campi dall'aspetto povero e stento, recinzioni di pietra da ogni parte e nessun albero. Haworth è un villaggio dalle case sparse senza ordine lungo una stretta, ripida via, così ripida che le pietre del selciato sono poste di sbieco affinché gli zoccoli dei cavalli trovino qualcosa a cui appigliarsi per evitare di slittare all'indietro, il che facendo si troverebbe ben presto a Keighley. Quanto sarebbe meglio se i cavalli avessero zampe e artigli da gatto. Bene, noi, il guidatore, il cavallo, la carrozza e io, ci arrampicammo lungo questa via e giungemmo alla chiesa dedicata a St. Otest. Chi era costui? Poi girammo in un viottolo senza uscita sulla sinistra, passando oltre l'alloggio del curato presso il sacrestano. Oltrepassammo la scuola, su fino alla porta d'ingresso della canonica aperta, su un piccolo piazzale che guarda verso la chiesa. L'affollato cimitero sta sui 3 lati della casa e c'è un piccolo recinto erboso per stendere i panni ad asciugare. Non credo di aver mai visto un posto così squisitamente pulito, un luogo ordinato con maggior precisione. Senza alcun dubbio la vita vi si svolge col ritmo di un cronometro. Nessuno si reca in quella casa, nulla ne disturba il riposo profondo, quasi non vi si ode una voce. Si percepisce il ticchettio dell'orologio della cucina, il ronzio di una mosca nel soggiorno da ogni punto della casa. Miss Bronte siede da sola nel soggiorno e, dopo aver fatto la prima colazione col padre nello studio di lui, aiuta nelle faccende domestiche, visto che una delle domestiche, Tabby, è quasi novantenne e l'altra non è che una ragazza. Quando finiva, l'accompagnavo nelle sue passeggiate sull'ampia distesa della brughiera. L'erica in fiore è stata rovinata dal temporale di 1 o 2 giorni prima ed è tutta di un livido colore brunastro invece del fiammeggiante color porporino che avrebbe dovuto avere. Oh, quelle alte, selvatiche, desolate lande ai confini del mondo, vero regno del silenzio. A casa per il pranzo alle 2. Il cibo veniva portato a Mr. Bronte nel suo studio. La tavola era apparecchiata con impeccabile semplicità. Poi ci riposavamo e conversavamo vicino alla chiara, vivida fiamma del caminetto. È una contrada fredda e le fiamme mettevano una piacevole calda luce in tutta la casa. Il soggiorno è stato evidentemente ammobiliato a nuovo in questi ultimi anni, visto che i successi letterari di Miss Bronte le hanno dato i mezzi necessari per farlo. Ogni cosa si adatta ed è in armonia con l'idea di una canonica di campagna occupata da persone di modestissimi mezzi. Il colore dominante nelle stanze è il cremisi, che fa da calda cornice al freddo grigio paesaggio esterno. Alle pareti ci sono il ritratto fatole da Richmond e un'incisione di quello di Thackeray dovuta al pennello di Lawrence. 2 rientranze, da una parte e dall'altra dell'alto stretto caminetto all'antica, sono riempite di libri. Alcuni le sono stati regalati, altri li ha comperati lei stessa e rivelano i suoi gusti personali. Non ha la vista buona e fa pochi lavori al lago, generalmente sferruzza. Ecco come si è indebolita la vista. Quando aveva 16 o 17 anni, desiderando moltissimo imparare a disegnare, si diede a copiare minuziose incisioni su rame dagli annuari, incisioni a retino, come le chiamano gli artisti, o mi sbaglio. Ogni puntino fedelmente messo a posto, finché alla fine di 6 mesi aveva prodotto una fedele, precisissima copia della incisione. Voleva imparare a esprimersi per mezzo del disegno. Dopo aver tentato senza successo di disegnare storie, si mise a scriverle, ma con caratteri così minuti che è quasi impossibile decifrare quello che scrisse a quei tempi. Ma per tornare alla nostra tranquilla ora di riposo, dopo aver pranzato, ben presto mi resi conto che le sue abitudini ordinate erano tali che non le riusciva di mandare avanti la conversazione se si accorgeva che una sedia era fuori posto. Ogni cosa era sistemata con delicata regolarità. Abbiamo parlato dei giorni lontani della sua infanzia, della morte della sua sorella maggiore Maria, rievocata con precisione in quella di Helen Burns in Jane Eyre, di quegli strani giorni di fame a scuola, del desiderio quasi ossessivo di esprimersi in qualsiasi modo, o scrivendo o disegnando, della vista che si andava indebolendo, il che le impedì di applicarsi in una qualche attività per 2 anni, dai 17 a 19, di quando era stata governante, della sua andata a Bruxelles. A questo punto dissi che Lucy Snow, di Villette, non mi piaceva, e discutemmo il personaggio di Paul Emanuel. Le dissi dell'ammirazione per Shirley, il che le fece piacere, perché per il personaggio di Shirley si era ispirata a sua sorella Emily, della quale non si stancava mai di parlare, né io di ascoltare. Emily deve essere stata della famiglia dei Titani, una pronipote dei giganti che in un remotissimo passato abitarono la terra. Un giorno Miss Bronte portò giù un rozzo dipinto a olio fatto da suo fratello, che vi aveva ritratto lei, una minuta e composta diciottenne, e le altre 2 sorelle, giovinette di 16 e 14 anni, dai capelli ricci e dai tristi occhi sognanti. Emily aveva un grande cane, mezzo mastino, mezzo bulldog, così selvaggio. Questo cane seguì il suo funerale a fianco del padre e poi, finché visse, dormì davanti alla porta della camera della padrona, annusandone la fessura e mugolando lamentosamente ogni mattina. Abitualmente facciamo una seconda passeggiata prima del tè, che viene servito alle 6. Alle 8:30 alle preghiere e per le 9 tutti quanti sono a letto, eccetto noi 2. Stiamo su insieme fino alle 10 e oltre, e dopo che mi sono ritirata odo Miss Bronte che scende nuovamente nel soggiorno e va su e giù per la stanza durante un'ora o giù di lì. Copiando questa lettera ho rivissuto i giorni della mia piacevole visita a Haworth con grande chiarezza. Un limpido e triste ricordo. Eravamo state così felici insieme, eravamo così piene di interesse l'una per l'altra. La giornata sembrava troppo corta per quello che avevamo da dire e da ascoltare. Capii meglio la sua vita dopo aver visto il luogo dove visse, dove amò e soffrì. Mr. Bronte fu un ospite cortesissimo e quando fu in nostra compagnia, nel suo studio, per la prima colazione o nel soggiorno di Charlotte all'ora del tè, descrisse i tempi passati con un accento grave e maestoso che combinava perfettamente con il suo aspetto. In presenza della figlia dava l'impressione di non essere ancora completamente convinto che Charlotte non era più una bambina a cui badare, ed ella si sottometteva con una tranquilla docilità che a metà mi divertiva e a metà mi lasciava sbalordita. Ma quando lei lasciava la stanza, allora tutto l'orgoglio che nutriva per il suo genio e per la fama che aveva raggiunto si manifestava. Ascoltava con attenzione tutto quanto potevo dirgli circa le lodi e l'ammirazione suscitate dai suoi lavori, che udivo esprimere costantemente. Era solito chiedermi con insistenza di ripetergli alcuni discorsi come se volesse imprimerseli nella memoria, parola per parola. Ricordo 1 o 2 conversazioni serali con Charlotte, oltre a quelle cui ho accennato nella mia lettera. Le chiesi se avesse mai preso l'oppio, visto che la descrizione del suo effetto che si trova in Villette era così esattamente simile a quanto avevo sperimentato io, una vivida e ingigantita presenza degli oggetti, i cui contorni si fanno imprecisi quando non si perdono in una nebbia dorata. Mi rispose che per quanto ne sapeva non ne aveva mai preso la benché minima dose sotto qualsiasi forma, ma che aveva seguito il procedimento che le era solito quando doveva descrivere qualcosa di cui non aveva diretta esperienza. Vi pensava intensamente per molte notti prima di addormentarsi, chiedendosi com'era o come avrebbe potuto essere, finché, alla fine, dopo che il racconto era rimasto fermo su quel punto, a volte per varie settimane, si svegliava una mattina avendo una chiara visione di tutti i particolari, come se ne avesse fatto la viva esperienza e poteva descriverli punto per punto accuratamente. Non so dare una ragione di questo fatto, ma ci credo perché me lo disse lei stessa. Fece molte domande circa l'aspetto di Mrs. Stowe, di Villette, ed evidentemente l'udire che l'autrice della capanna dello zio Tom era piccola e minuta corrispose bene a una sua qualche teoria. Un'altra sua teoria era che nessuna mistura di sangue produceva personalità così belle, tanto intellettualmente quanto moralmente, come l'unione di quello inglese con quello scozzese. Ricordo anche che mi disse quanto acutamente aveva temuto l'accusa di plagio quando, dopo aver scritto Jane Eyre, aveva letto l'eccitante effetto dell'urlo misterioso a mezzanotte nel racconto Deformed di Mrs. Marsh. Mi disse che quando aveva letto in Neighborhood temette che si pensasse che aveva preso come modello di Jane Eyre il personaggio di Francesca, la narratrice del racconto di Mrs. Bremer. In quanto a me non riesco a vedere la benché minima rassomiglianza tra i due personaggi, glielo dissi, ma lei sostenne che Francesca era Jane Eyre sposata a un orso bonario di chirurgo svedese. Nelle nostre passeggiate ci capitò di visitare, non di proposito ma accidentalmente, varia povera gente. Da una persona prendemmo a prestito un ombrello, in casa di un'altra ci riparammo da un violento temporale settembrino, in tutte quelle casette era ben conosciuta. A 3 miglia da casa sua toglievano la polvere a una sedia per offrirgliela con un gentile «si accomodi, Miss Bronte». Lei sapeva di quali membri della famiglia ammalati o assenti fosse il caso di informarsi. Le sue quiete, gentili parole, per quanto fossero poche, riuscivano evidentemente gradite a quelle orecchie contadine. Il benvenuto che l'accoglieva, benché ruvido e breve, era sincero e cordiale. Parlammo dei diversi corsi della vita. Disse, nel composto modo tutto suo, di credere fermamente che certuni erano destinati al dolore e a molte delusioni ancor prima di nascere, che non toccava a tutti, come dice la Sacra Scrittura, di avere il proprio sentiero tracciato in modo piacevole, che era una buona cosa per chi aveva in sorte percorsi difficili rendersi conto che quello era il volere di Dio e conseguentemente moderare le proprie aspettative, lasciando la speranza a coloro cui toccava un destino diverso. Io vedevo le cose da un punto di vista differente. Pensavo che i destini umani erano più simili tra loro di quanto lei immaginava, che per alcuni la felicità e dolore si alternavano a sprazzi, per così dire, di luce e di ombra, mentre per altri correvano equamente per tutto il corso della vita. Sorrise, scosse il capo e disse che in quanto a lei evitava di attendersi qualsiasi piacere. Era preferibile essere coraggiosa e rassegnarsi docilmente. Doveva esservi una qualche buona ragione che avremmo conosciuta a suo tempo perché il dolore e la delusione fossero destinati a certune e a certuni in terra. Era meglio riconoscerlo e guardare in faccia la verità con fede. Per illustrarmi quanto sopra, accennò un piccolo piano abortito di cui allora non sapevo niente. Nello scorso luglio era stata tentata di unirsi a una coppia amica e al loro bambino per fare un'escursione in Scozia. Si erano messi in viaggio allegramente, lei in modo speciale, perché l'affetto per la Scozia aveva radici profonde nel suo cuore e finora ne aveva visto solamente un piccolissimo scorcio nei 2 giorni trascorsi a Edimburgo. Ma alla prima tappa, dopo Carlisle, il piccolo diede segno di una leggera indisposizione e gli ansiosi genitori, immaginando che il cibo insolito gli facesse male, si affrettarono a ritornare a casa con lo stesso slancio che 2 o 3 giorni prima avevano messo nell'avviarsi verso il nord, aspettandosi una piacevole gita di un mese. Ci separammo con sincera intenzione da ambo le parti di rinnovare frequentemente il piacere provato nel trovarci insieme. Concordammo che quando lei volesse distrarsi e io desiderassi quiete ne avremmo parlato e ci saremmo scambiate una visita. Sapevo che in quel tempo una grande pena l'angustiava e conoscendone la natura non potevo che ammirare profondamente la paziente docilità che dimostrava verso suo padre. Subito dopo la mia partenza, Charlotte andò in visita da Miss Wooler, che in quel periodo soggiornava a Hornsey. Trascorse 2 giorni quieti e felici con questa amica, la cui compagnia le si faceva più cara di anno in anno. A Miss Wooler, 12 dicembre 1853. Mi chiedo come stia trascorrendo queste lunghe serate invernali. Da sola, probabilmente come me. Mentre me ne sto seduta senza compagnia, spesso mi viene in mente quanto sarebbe piacevole se lei vivesse a poca distanza da qui e mi fosse possibile recarmi a piedi da lei oppure a lei di venirsene a trascorrere un pomeriggio e una notte da me. Ho goduta la mia settimana a Hornsey e aspetto con impazienza l'arrivo della primavera quando lei manterrà la promessa di venire qui. Temo che si senta molto sola a Hornsey, quanto sembrerebbe duro a certe persone mondane vivere la sua vita. quanto assolutamente impossibile viverla con uno spirito sereno e una generale buona disposizione. Ciò sembra meraviglioso perché lei non è come Mrs. flemmatica, impenetrabile, ma ha ricevuto dalla natura sentimenti finissimi. Simili sentimenti, quando sono tenuti sotto chiave, a volte danneggiano la mente e il carattere, ma non danneggiano lei. Devono essere in parte i principi, in parte l'autodisciplina che la mantengono qual è. Naturalmente, a mano che mi avvicino agli anni che si sono così recentemente conclusi, mi diventa impossibile narrare con la completezza che fino a questo punto non ho giudicato impropria. Miss Bronte trascorse l'inverno 1853-54 in ansiosa solitudine, ma il tempo, questo grande conquistatore, andava poco a poco vincendo il pregiudizio e l'ostinazione del padre. Mr. Bronte andava gradatamente accettando l'idea che la figlia si potesse sposare. La donna, timida e coscienziosa, stava per diventare sposa, ma una troppo breve, perfetta felicità di 9 mesi della sua vita coniugale poté vivere. Una lettera all'antica compagna di scuola di Bruxelles dà un'idea del corso delle cose durante l'inverno. 8 marzo. Sono contentissima di rivedere la tua calligrafia. Credo fosse un anno che non avevo tue notizie. È ritornata ripetutamente nei miei pensieri negli ultimi tempi e incominciavo a fare tristi previsioni sulle cause del tuo silenzio. Fortunatamente la tua lettera le spazza via tutte quante. Mi porta ottime notizie del tuo papà, della tua mamma, delle tue sorelle e ultima, ma non meno importante, della tua cara rispettabile identità inglese. Il mio caro padre ha sopportato benissimo il duro inverno, cosa di cui sono tanto più grata al cielo poiché nella scorsa estate la sua salute era stata assai precaria in conseguenza di una crisi sofferta nel giugno che era giunta a privarlo totalmente della vista per alcune ore, benché né la lucidità mentale né la facoltà di parola o di movimento fossero minimamente diminuite. Non ti so dire quanto ringraziai Dio quando un primo barlume di luce apparve ai suoi occhi dopo quel terribile intervallo. Avevo temuto che il nervo ottico fosse stato colpito da paralisi. Una certa nebbia durò poi a lungo e, a dire il vero, la vista non gli è tornata perfettamente chiara, ma è in condizioni di leggere, di scrivere, di camminare come e dove vuole e fa 2 prediche ogni domenica, lasciando al curato l'incombenza di leggere le preghiere. Puoi ben capire con quanto ardore io desideri e preghi per la vista che gli sia risparmiata fino al suo ultimo giorno. Teme talmente la cecità. La mente è forte e attiva come sempre stata e la politica lo interessa quanto interessa tuo padre. Lo zar, la guerra, l'alleanza tra Francia e Inghilterra, in tutte queste cose si getta anima e corpo. Sembra lo portino indietro negli anni e rinnovino le ansie e l'eccitamento dell'ultimo grande conflitto europeo. Naturalmente le simpatie di mio padre e le mie sono tutte per la giustizia e l'Europa contro la tirannia e la Russia. Dati i fatti che ti ho esposto, capirai che durante l'anno passato non ho avuto né il tempo né la voglia di stare a lungo lontana da casa. A primavera ho trascorso un periodo da Mrs. Gaskell e più recentemente una 15 giorni con alcuni altri amici e queste sono tutte le visite che ho fatto dall'ultima volta che ci siamo incontrate. La mia vita è veramente molto uniforme e calma, più di quanto realmente convenga alla psiche e al fisico e tuttavia trovo motivo di rinnovare spesso le grazie che rendo a Dio per ogni cosa che venga ancora a rallegrarmi di quando in quando. La mia salute, benché non saldissima, è più forte nell'insieme di quanto lo fosse 3 anni fa. Le cefalee e la dispepsia sono i miei peggiori malanni. Non so se questa stagione verrò in città, ma se lo farò, per alcuni giorni, come spero, non mancherò di suonare alla tua porta. In aprile annunciò a Miss Wooler il suo fidanzamento. Haworth, 12 aprile. Mia cara Miss Wooler, il sincero, affettuoso interesse che lei ha sempre dimostrato nei miei confronti mi fa sentire in dovere di comunicarle subito un fatto a proposito del quale l'ho consultata più di una volta. Vengo dunque a dirle che da quando le scrissi ultimamente la presa di posizione è gradualmente cambiata. Dopo uno scambio di lettere e una visita fattaci una settimana fa da Mr. Nichols, è stata presa la decisione che questi riassuma l'incarico di curato a Haworth, appena l'attuale assistente di papà avrà trovato un'altra collocazione e in seguito entri a far parte della nostra famiglia. Mi è causa di indicibile soddisfazione il vedere che, avendo ammesso quest'ordine di cose, mio padre indugia a parlarne con grande compiacimento. Nella nuova sistemazione il suo benessere e la sua intimità verranno scrupolosamente rispettati. Mr. Nichols sembra desiderare sinceramente di sostenere e confortare gli anni del suo declino. Conoscendo il carattere di Mr. Nichols, penso di poter essere certa che questo suo atteggiamento non dipenda da un sentimento transitorio, ma che sarà considerato come un impegno definitivo e sarà svolto teneramente, come un compito ispirato all'affetto. Il destino che la provvidenza, nella sua bontà e saggezza, sembra offrirmi non sarà, lo so, considerato brillante, ma sono certa di non ingannarmi scorgendovi dei presupposti di felicità. Confido che quanto richiede il sentimento da un lato e il dovere dall'altro si concilierà nel passo che sto per compiere. Mr. Nichols desidera che il nostro matrimonio venga celebrato la prossima estate. Insiste per il mese di luglio, ma a me sembra che sia troppo presto. Quando mi scriverà mi dia notizie di sé. Ormai ho decisamente accantonato la mia visita a Londra. I 3 mesi che mi stanno davanti mi daranno più che sufficienti preoccupazioni. Non posso prendermi il lusso di gettar via un mese. Papà ha ricevuto recentemente dal caro vescovo una lettera che ci ha fatto molto piacere e ci ha commossi. Esprime una cordiale approvazione per il ritorno di Mr. Nichols a Haworth, rispetto al quale era stato consultato, e una così gentile soddisfazione per la futura combinazione familiare. Pare che avesse già intuito lo stato delle cose in occasione della sua visita nel giugno del 1853.